Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Che cosa significa oggi per un ragazzo disabile andare a scuola? È un'esperienza che fa uscire fuori dall'isolamento familiare, oppure al contrario è una sorta di percorso a ostacoli, un'esperienza paradossalmente alla fine non di integrazione ma di nuova solitudine? Una delegazione di familiari di pazienti affetti da autismo questa mattina si è recata alla direzione generale dell'ASP di Caltanissetta per avere chiarimenti sul mancato avvio del centro diurno per soggetti affetti da autismo. Noi stiamo cercando di pungolare le istituzioni perché si possono creare appunto delle strutture con una partecipazione da parte di noi genitori dei disabili e una parte diciamo finanziata dallo Stato. Noi auspicavamo, fra parentesi, appunto di avere d'aiuto da parte soprattutto dei comuni. Dato che la regione... Questa mattina, una mattina importante per il Paese, lo state ascoltando dalle dirette che vengono fatte dai vari telegiornali, ma soprattutto da questa radio. Quindi nel momento fatidico in cui prende in mano lo scettro del governo del paese una nuova persona e si pensa e si immagina e si spera che qualcosa cambierà, io voglio questa mattina porre l'attenzione di tutti un problema che personalmente mi sta molto a cuore, ma devo dire che in questo ultimo anno, da quando ne parlo a questi microfoni, ho avuto una fantastica e meravigliosa collaborazione anche da questa radio, come da tanti altri amici che si occupano di informazione. Beh, pongo all'attenzione un modo forse diverso, forse più attento, forse meno attaccato a quelle che sono le logiche del potere per gestire il problema della disabilità. Ma in particolare mi riferisco, visto che non si può essere generici in questo caso, mi riferisco a una disabilità che nel nostro paese è la prima fonte di disagio, di cui probabilmente molto si sente parlare, molto anche noi abbiamo parlato, ma c'è un problema profondamente legato alla buona volontà delle istituzioni. Sono quasi 4 anni che l'Istituto Superiore di Sanità ha emesso le linee guida sull'autismo, cioè in un tema così controverso, così difficile, così legato alle superstizioni, a maniere antiquate di concepire la disabilità di tipo psichico, è colpa delle madri, è colpa della famiglia, bisogna lavorare di psicanalisi per capire cosa è stato turbato in questo bambino per cui si isoli così dal mondo, insomma tutte cose che nei mesi e nei tempi in cui abbiamo parlato abbiamo cercato in qualche maniera di riportare a un criterio perlomeno di verificabilità, di attenzione, cercando di far capire comunque anche su un tema così vago, così difficile come quello dell'autismo, di cui tanti parlano e pochi sanno esattamente cosa si tratta, ma pensate che è un problema che tocca nel nostro paese, per difetto si dice 600.000 famiglie, ma sono probabilmente molte di più, lo stiamo vedendo di persona, occupandoci personalmente, individualmente di questo problema. Beh, stranamente da 4 anni, una volta che l'Istituto Superiore di Sanità ha detto esattamente cosa sarebbe bene fare verso l'autismo, dal punto di vista della legge non si riesce a muovere nulla. Sono 4 anni che si cerca di far capire che in realtà si darebbe felicità, meno disagio, più attenzione, un trattamento molto più dignitoso alle persone che sono nell'area appunto dei soggetti con sindrome autistica, però la legge non si muove. E questa mi sembra la mattina giusta proprio per parlarne. Avevo invitato le due parlamentari per la Camera e per il Senato, che bene o male sono quelle che hanno dimostrato più attenzione a questo iter, capisco che è una mattinata di fuoco, stiamo cercando di rintracciarle, però a questo punto lo faccio con la persona che secondo me in Italia ha maggiori strumenti di lettura e dati a disposizione per trattare questo problema, che è Carlo Anao. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Carlo Anao è docente di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari all'Università di Modena e Reggio Emilia, membro del comitato scientifico dell'ANCSA, che è l'Associazione Nazionale Genitori di Soggetti Autistici. Ma Carlo Anao ha un'esperienza molto vasta anche nel campo delle malattie rare, quindi questa mattina chi ci ascolta ha modo di intervenire chiamando all'800240024, sentendo dal suo punto di vista quanto quello che diciamo noi corrisponde poi a una realtà individuale e personale. Allora, professore Anao, cominciamo a fare il punto. Una legge sull'autismo sembrava in questo paese qualcosa che era quasi fatto, quando finalmente abbiamo avuto delle linee guida, cioè delle maniere per trattare l'autismo in termini razionali, concreti, laici, scientifici. Eppure da 4 anni è quasi ora di rifare le nuove linee guida, che ogni 4 anni vanno cambiate, 3 anni e mezzo sono passati, ma di legge ancora non se ne parla. Come mai? Qual è il punto? Ma a dire la verità ci sono state di mezzo. Prima di tutto la linea guida numero 21 dell'Istituto Superiore di Sanità, che è uscita alla fine del 2011. Poi c'è stata le linee di indirizzo della conferenza unificata Stato-Regioni, enti locali, ci sono i comuni, le province, il mondo, che è uscita alla fine del 2012 per l'applicazione della linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità. E poi c'è stato l'ONU che ha fatto una risoluzione riguardante i bisogni socio-economici delle persone affette da autismo e da forme associate di disabilità delle loro famiglie. E questa è la fine del 2012. Quindi gli input ci sono stati? Quindi, gli input ci sono stati. Teoricamente queste cose sarebbero più che sufficienti, però il titolo quinto della Costituzione lascia alle regioni la piena facoltà di legge all'interno della materia della sanità e dei servizi sociali. Allora, qual è il problema? Il problema è che ci deve essere una legge nazionale che impone i LEA, i livelli essenziali di assistenza, per l'autismo. Ecco, purtroppo questa legge, perché deve essere una legge nazionale, non può bastare un decreto, e non è ancora uscita. Ecco. E proprio per questo invece noi vorremmo che il 2 di aprile, che è la giornata di attenzione mondiale sull'autismo, fosse l'occasione buona per portare avanti questi progetti di legge che già ci sono, fatti da 5 deputati e senatori differenti al Senato e alla Camera, ed eventualmente anche quello che le associazioni aderenti alla FIS, Federazione Italiana Superamento Handicap, tra cui appunto c'è l'ANSA, il gruppo Asperger, e poi all'interno della FIS c'è anche ANSAS, no? Vorremmo che questa proposta delle associazioni venisse presa dai deputati e dai senatori un pochino come il coagulo delle loro proposte, che non sono fra loro divergenti. Ecco, vogliamo far capire però, professor Anao, cosa cambierebbe nelle famiglie, quali sono i punti dolenti che una legge potrebbe in qualche maniera creare un minor disagio, quali sono i punti base, classificazione delle terapie giuste, quelle che sono inutili, sono ancora regioni che applicano ai soggetti autistici le terapie che sono scientificamente determinate quanto inutili, inefficace tutto, e i soldi pubblici vengono usati per delle cose che non servono a nulla, questo dovrebbe essere un punto. Purtroppo, attualmente bisogna fare delle vertenze legali, bisogna fare delle vertenze sociali per ottenere quello che invece dovrebbe aspettare di diritto. Se ci fosse una legge nazionale, tutte le regioni italiane, dicasi tutte, sarebbero obbligate ad applicarlo. Qui però non è solo un discorso di regioni, ma anche un discorso di collaborazione, di integrazione tra le regioni da una parte, il sistema scolastico, il sistema quindi quello che ci dà tante ore di assistenza a questi bambini, perché i bambini con autismo, che sono quelli gravi, parliamo di quelli gravi, ricevono già oggi una 30 ore alla settimana di sostegno, cosa che negli altri paesi è assolutamente impensabile. Il problema è che queste 30 ore che vengono date tra insegnante di sostegno, assistente all'autonomia e alla comunicazione, educatore professionale, non sono coordinate fra di loro, e quindi abbiamo un grande esercito di 5.000 persone che lavora per l'assistenza a questi bambini che non sa da che parte girarsi. Quindi per paradosso si spendono soldi pubblici in maniera disordinata, si fa un grande girare attorno al soggetto che poi dovrebbe essere l'obiettivo centrale di tutta questa vicenda, ma in realtà lui non gli porta poi il beneficio, potrebbe portargli, potrebbe spendere meno e spendere meglio soprattutto. Ah certo, molto molto meglio, basterebbe dare a tutte queste persone un coordinatore pedagogico che, guarda caso, sta scritto nelle linee di indirizzo della conferenza unificata Stato, Regioni, locali e il mondo, quello approvato alla fine del 2012. Ecco, io so che ci sono molte persone che stanno ascoltando, vedo i messaggi che arrivano, che hanno il problema in casa. Vediamo se riuscite a centrare quelli che sono i problemi che finora vi vengono presentati come insolubili, quando avete un ragazzo che è bene o male in questa sfera di attenzione. vediamo se secondo voi ci sarebbero dei punti che potrebbero essere cambiati, considerato che quello che dice il professor Anau, in realtà anche l'ascoltatore che non ha il problema sulla propria pelle dovrebbe in qualche maniera far riflettere. In fondo sono soldi pubblici, sono soldi che vengono spesi, sono persone che vengono messe intorno, che ruotano, che fanno muina, come spesso si dice, ma in realtà al soggetto non servono a nulla, servono meno, servono poco, andrebbe razionalizzato. L'unico strumento per razionalizzare è una legge. La legge non sa perché si arena, ma non sarà professor Anau che in realtà poi questo sistema tutto sommato tiene in piedi tante realtà che nel bene o nel male, in maniera efficace o non efficace, comunque si occupano di un grosso problema, un problema che riguarda tante persone che vedrebbero messa magari in crisi la loro esistenza se non si adeguano a quelli che sono poi i sistemi previsti dalla comunità scientifica. A dire proprio di sì, perché il dramma è che questi bambini, quando non vengono trattati da subito, quindi precocemente, intensivamente, con metodi strutturati che sono stati approvati dalla linea guida e non con altre stupidaggini che si raccontano in giro, quando questi bambini non vengono trattati da subito, dopo diventano dei casi molto gravi che costeranno nel corso della vita 3 milioni, 4 milioni di euro, oltre che il dramma per le famiglie, oltre che il dramma per la società in genere e per loro stessi in primis. Quindi è proprio quello che io, come insegnante di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari, mi sento veramente toccato direttamente nel vivo vedendo questi sprechi enormi di persone che vengono pagate e non sanno che cosa fare, non sanno dove andare. Quindi profondamente il punto sarebbe, vediamo se ho capito bene, innanzitutto istituire per legge una diagnosi precoce, come i bambini vengono osservati appena nati nei primi mesi di vita, se hanno ci accontentiamo a 18 mesi. Cioè entro 18 mesi ci fosse una legge che prescrive una diagnosi precoce come esiste in tanti altri paesi, non so, in Argentina ci sono arrivati, grazie a Selene Colombo, una giovane filmmaker che ha fatto un film su questo e hanno fatto una legge in pochi mesi. In Italia invece non c'è una legge sulla diagnosi precoce, qual è il problema? Appunto, il problema è che se ci fosse scritto nei livelli essenziali di assistenza che a 18 mesi il pediatra, al momento di fare quello che è il tagliando dei bambini a 18 mesi, deve guardare anche con una scala facilissima da utilizzare che si chiama chat o chat modificata, no? Deve osservare il bambino, deve osservarlo insieme ai genitori, gli basta 20 minuti di tempo. In 20 minuti, 30 minuti al massimo di tempo, il pediatra è in grado di riconoscere se in quel bambino ci sono delle problematiche di tipo autistico. Dopodiché lo deve mandare ovviamente a degli esperti che sanno quello che si deve fare, non i vecchi esperti che dicevano che era colpa della mamma, che era una grossa sciocchezza che però ancora oggi viene utilizzata, purtroppo. Deve mandare degli esperti. Gli esperti in giro 2-3 mesi devono far diagnosi, ma soprattutto devono intervenire da subito. Ecco, un bambino autistico a cui si interviene in maniera precoce ha molte possibilità perlomeno di parlare, di sviluppare delle abilità che mio figlio non ha mai sviluppato, proprio perché ai miei tempi ancora fare una diagnosi sembrava una cosa che stava nell'altra parte della luna. E giravi, ti facevano passare anni, mesi, te lo guardavano, diciamo vediamo, forse chissà perché. Quando il ragazzo poi era cresciuto c'era più poco da fare. Melog, cronache meridiane. Ho voluto dare soltanto un piccolo assaggio di quello che avviene nei confronti di un problema di tipo sociale, di tipo sanitario, che investe una fetta altissima di cittadini italiani. Si parla dagli 600.000 a 1 milione di famiglie interessate. Un problema che sembra insolubile, perché sembra così difficile creare una legge per gestire i ragazzi autistici, per gestirli in maniera precoce, per fare una diagnosi precoce, per avviarli a una terapia certa, per avere una certezza terapeutica nel corso della loro vita e soprattutto per capire cosa accadrà quando questi ragazzi diventano grandi. Scende un velo, sono fantasmi, nessuno sa più nulla, e a fare le spese di tutto questo sono le famiglie. La politica è molto poco interessata. Questa mattina due parlamentari erano state da noi contattate, sembravano d'accordo per parlare di questa legge che giace da qualche parte, in qualche cassetto, sia la Camera che al Senato, ma sono troppo occupate entrambe questa mattina per darci 5 minuti del loro tempo. Ne prendiamo atto. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno ai suoi ospiti. Senta, io parlo per cognizione di causa perché ho un bambino di 9 anni affetto da autismo. Diciamo che nel rilevare la malattia di mio figlio se ne sono accorti in primis la madre, perché non aveva nessuna espressione. Ci siamo rivolti alle strutture statali. Che età aveva il bambino? Aveva 14-16 mesi, ce ne siamo accorti che non aveva espressioni quando lo si andava a prendere. Quindi è stata brava la madre, ha fatto quello che molte madri non fanno perché preferiscono dar retta alle nonne, alle zie, alle maestre, diranno no, che vedrai che parlerà. Mi ha fatto presente, no, ma proprio non aveva espressione quando andavi, il sorriso del vedere la madre che lo va a prendere, una cosa naturale. E anche ci siamo rivolti a delle strutture qua a Milano e ci hanno dato la diagnosi dell'autismo. Ecco, il problema qual è? Il neuropsichiatra che prenderà poi in carico il ragazzo, ahimè, è troppo sobbarcata di casi e non riesce a dedicare, secondo me, il tempo e diciamo gli interventi giusti per singolo caso. Allora in questo frangente si deve andare a supplire con il genitore. Un esempio, mio figlio mi ha detto che essendo un maschietto è un non verbale. Noi abbiamo chiesto. Beh, a 9 anni se non parla lo capisce da solo. No, attenzione però Nicoletti, perché non è vero, perché se fosse stato fatto un lavoro precoce, e certo, qua ribadiamo sempre, prima si investe e più si guadagna sul soggetto, il bambino, io adesso continuo a mandarlo al logopedista, da dire niente, usare... Mi dispiace doverglielo dire, non voglio fare diagnosi delle diagnosi. No, ma io non ho aspettative alte, però... Beh, il logopedista... E andare col libricino, a cominciarmi a dire acqua, pane, banana, papà, mamma, sono dei passi. Se avessimo investito precedentemente del tempo, forse qualcosa in più. Guardi, lei Luigi ci è arrivato esattamente da solo, io non voglio prendermi la briga di entrare in temi che non sono di mia competenza, però mandare un bambino 9 anni autistico da un logopedista, noi genitori sappiamo che è tempo perso. Demetrio. Buongiorno, sì. Volevo ricordare che i regolamenti di applicazione in Italia sono una cosa che sfida la velocità delle lumache. Perché ad esempio per il regolamento di applicazione della riforma delle poste ci impiegarono la bellezza di 30 anni, il che vuol dire che qualsiasi regolamento di applicazione, compreso questo del quale si vede nitidamente l'urgenza, dovrebbe essere sanzionato presso la pubblica amministrazione. Chi è il responsabile di non avere emesso il regolamento? O anche dopo un certo tempo il ministro? Sì, no, l'ha già spiegato il professor Anau, poi lui lo dirà meglio di me, che ci vuole una legge dello Stato, perché in questa materia le regioni hanno autonomia, ogni regione può fare quello che vuole. Se non si fa una legge dello Stato che vada sopra le autonomie della regione ad imporre, la parola è brutta, ma vista l'urgenza quello che ci vuole, una legge sull'autismo, continueremo a avere, ecco, come un signore che a 9 anni ancora dicono di portare il figlio al logopedista. Raffaella. Buongiorno, sì. Io sono proprio una battuta che se aspettiamo la diagnosi dal pediatra di base stiamo freschi, perché voglio dire, la mia pediatra non ha saputo fare una diagnosi neanche di fronte all'evidenza, quindi ecco, un maggiore controllo da parte di questi pediatri, i pediatri di base che devono comunque, non so, essere informati su questa patologia. Lei dice non hanno gli strumenti per fare la diagnosi, le dirò adesso qualcosa che la farà stare ancora peggio. Professor Carlo Anau. Avete mai preso voi contatto con le associazioni pediatri per dire non potete fare questo test ai bambini? Cosa vi hanno risposto? Certo. Allora, prima di tutto è un problema culturale, perché molti pediatri sono ancora ai vecchi tempi in cui si pensava che il bambino con autismo avrebbe potuto parlare solo che lo avesse voluto. E invece non è vero, il problema suo neurologico è tale per cui effettivamente non riesce a parlare. I pediatri in genere sono abituati a fare questo discorso nei confronti delle mamme: siete troppo ansiose, non dovete preoccuparvi, col tempo vedrete che il bambino parlerà, il bambino farà quello che fanno gli altri, perché poi c'è qualcuno che è più presto, qualcuno che è più tardo e così via e così via. Che è la cosa peggiore, perché si perde tempo. È la cosa peggiore, sì. Allora, questo è vero che in molti casi questa risposta salva i pediatri da fare ulteriori analisi e ulteriori impegni, ma purtroppo invece quando siamo di fronte a una chat o una M-chat, questa scala, no, che viene utilizzata, una scala di osservazione del bambino con i genitori, che dà un esito purtroppo positivo, cioè alla scala il bambino si dimostra positivo, cioè pare proprio che abbia il problema dell'autismo, a quel punto lì il pediatra deve mandare uno specialista, Cioè, è chiaro che un problema così pesante deve essere trattato da uno specialista. Anche se è un problema, si porterà tutta la vita dietro, non è che guarisce. Esatto. Bisogna essere chiari in questo. E purtroppo invece i pediatri su questa scala, che gli porterebbe via 20 minuti, 30 minuti di tempo, non sono pronti ad accettarla. Perché vogliono essere pagati per farlo. Non che non la sappiano fare, perché molte aziende sanitarie locali, non tutte ovviamente, perché l'Italia finché non c'è il LEA, ognuno fa quel che vuole, ma molte delle aziende sanitarie hanno fatto queste lezioni ai pediatri. Basta una mezza giornata per spiegarlo. Il problema dopo però diventa un problema sindacale, perché effettivamente i pediatri dicono: noi siamo pagati poco, se volete che facciamo qualcosa in più dovete darci un contributo ad hoc. E questo è un altro problemino, perché invece... Ma quanto sarebbe in soldoni il contributo? Qualche decina di euro a diagnosi? Ma una volta, per esempio, alcune regioni davano 30 euro per ogni diagnosi. Non per ogni diagnosi, scusate. Per ogni, diciamo, test, per ogni test, diciamo, test, cioè, per... Non è che sono pagati a cottimo, nel senso che soltanto se lo trovano sono pagati. Facendola su tutti i bambini questa osservazione, venivano pagati 30 euro. Mi parla Lombardia, forse così. Questi soldi non ci sono più e quindi i pediatri... Quindi lei mi dice, questo, no, che nel nostro paese ci sono ragazzi che si portano avanti un problema così grave che non viene trattato in tempo, in maniera precoce, perché per un problema sindacale i pediatri bisognerebbe mettere una legge che facciano questo test iniziale, che è la cosa base, guardare se non segue lo sguardo, se allinea gli oggetti, sono alcune cose base per dire: bah, questo ragazzo potrebbe essere, e vai dal neuropsichiatra. Per fare questo ci sono ragazzi che a 9 anni ancora non hanno una diagnosi certa, non si sa un trattamento certo, stanno facendo terapie che comunque costano alla cosa pubblica, che però non saranno mai utili e saranno condannati tutta la vita perlomeno a perdere quelle abilità di base che potrebbero avere grazie a questa sorta di trattamento precoce, che in molti paesi, civilissimi paesi o anche paesi del cosiddetto terzo mondo, avviene. Franca, buongiorno. Buongiorno, chiamo dalla provincia di Como. L'esperienza mia personale, una mia amica ha il nipotino che è autistico, l'hanno scoperto solo a 3 anni quando ha cominciato ad andare all'asilo. Per il fatto che io conoscevo molto bene questo bambino, sono andata a casa di una signora un giorno, un bambino di 1 anno e mezzo, ho visto che aveva i tratti da autistico. La madre l'ha portato da uno psichiatra, ma il problema grave secondo me è che manca anche la maniera di comunicarlo ai genitori. Cioè, come dicevano prima, non sono preparati, ma non solo a fare la diagnosi, ma anche ad avere questo contatto con i genitori, che naturalmente non accettano la malattia di questo bambino. Questo è un altro dei nostri problemi culturali. Professor Carlo Anao, proprio vediamo in conclusione. La legge, rispetto ai punti che abbiamo soltanto lambito in questa breve chiacchierata, come potrebbe intervenire? Benissimo, applicando con una legge nazionale ciò che le linee di indirizzo della Conferenza Unificata Stato-Regioni già hanno scritto. Cioè, bisognerebbe semplicemente tradurre questa cosa in forma di legge, questo è il problema. Noi poi abbiamo anche in più quel documento dell'ONU che dovrebbe essere recepito in Italia, ci vuole anche lì una legge che lo recepisca. Cioè, sono semplicemente delle leggi di ricezione di cose che già esistono, sulle quali il mondo è d'accordo, tranne ovviamente quelli che ancora ritengono che sia colpa della mamma, e purtroppo quelli purtroppo sono tanti e hanno anche il loro peso in Parlamento. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti, speriamo che qualcuno ci abbia sentito di quelli che da oggi saranno il nuovo governo. A domani.